vicenda. Ecco già. Ascolta Tommaso, Tommaso che te ne scenda. Se mi arrivi anche questa antenna, dove sei? Cosa fai da arrivare? Adesso non sento più questa antenna. Poco facci. Santiago al 3 si è arrivato, senza antenna, nel Mobico. Figurati che è canimusco questi segnali. Ti ha segnali bassi. Santiago al 3 si è arrivato. Signore, interrompo, un po', tengo un po' acceso, poi ci sentiamo stasera magari. Ciao a tutti, ciao Luca, ciao Gianni, e chi sta ascoltando. Bene, ciao, ciao, ci sentiamo stasera, Roberto. Buon divertimento, va. Io non lo so se ci sono stasera, ma... Adesso di nuovo forse, non va mai a sera. Avanti! Avanti, Luca. Via, ciao Roberto, ciao, a stasera, ciao, ciao. Lava, lava. Chiudo anch'io Luca, ciao, ci sentiamo. Gianni, sentiamo, non si è arrivati, sempre 9.30. Ui, aia, nulla. Chi è? Gianni. Già. Via. Quando è? È bene, è bene. Come, come, sei già bene? Gappa, gappa. E stasera ci fanno un cavo di comitudo. Non so cosa fare. Dai, dai, non è detto che era colpo. Non metto problemi, io... No, io lo dico. Sento loro, lei dice una scuola frequente. Lo dici, guarda, quindi c'entrava un bando al buco. Se c'entra, esce bene. Deve stare già attento. Ma intanto loro mi mandano, mi usano in questa bomba, già. Non c'è la notte dei problemi. Cazzagliati. Mi chiamano dopo pranzo, se mi chiama, però no, c'è Giancarci pronta, siamo il primo. Mi ha fatto un ecco? Gappa. Quanto è quello? Sta salendo, 161 è salito. Vabbè, a parte che non so più il 900. Ma ci mancano 3 giorni. Pure. Gappa, gappa. Nessuno, non c'ha chi rilancia, sono stato l'unico, l'ho chiamato pure a casa quello lì. Oh, ma lui come ha preso, come c'era la fabbrica, lui come ha preso il finale, diciamo. No, lui non è, io gli ho detto, se me lo dava così com'era, glielo prendevo subito io. Lui mi ha detto, no, per la correttezza finisco l'asta. Se c'è la giudica, c'è la giudica, vabbè, non c'è problema, mi ha detto. E poi ho chiesto alcune cose, detto che ho preferito parlare di persona così con lui. E lui mi ha detto, ha fatto bene, gli ha detto che era un ex CD, lì non c'è più niente. E a suo marito ero parlando perché è stato sempre gelosissimo di questa parecchia, ha sempre tenuto bene. E lui ha detto che se non la giudico me lo fa testare tutto quanto prima di l'anno. Lui ha detto che l'ha provato, funziona, calcolate perché c'è ancora l'antenna, ha provato, esce, fa tutto quanto, però diceva che lo faccio testare perché è stato 5 anni fermo, piccola novità. 5 anni non sono tanti, Io che ho avuto il 440 fermo quasi di 15 anni, sì, non ho dovuto fare alcune cose, certo, vai a mettere la funzione, però... Magari non è attrezzato se è così è buono lì, perché se c'è quella cosa che mi ha detto è buonissimo, porca miseria se è buono. È salito di alto e sono salito di più. Aspetta, ma gli ultimi giorni lo tieni sotto controllo. Ok, ciao Marco, quella roba ok, Va bene, non so Marco. Perfetto. No, ancora in macchina non l'ho provato, però proprio la roba lì, facciamo proprio. Che poi devo accompagnare mia moglie a fare la spesa e me lo porta presso. Guarda, quello è un amore, a mio malincuore te l'ho dato, perché uno degli affaretti che ha preso mi ha stato trattato bene, non è mai stato un problema. Benissimo, ma dire, per me in questa frequenza vanno bene certi altri apparati, a 144, 140, gli altri HF lasciali perdere, per carità, va, se te lo faccio vedere attacco l'altro e c'è una differenza. No, se ce l'ho bene già, e c'è una bella radio. Cosa cambia? Come sono? Adesso sto usando il Galaxy, il Pluto. Aspetta, mi sono e mi ha ragionato quello. Sempre più bene, no, ma noi l'abbiamo venduto, abbiamo fatto incontro al lavoro. Ah, che ha pagato. Ah, che vabbè. Sai che però se non è dormito perché la sera. Sai, ma anche io. Sai, già aveva fare. Sono baracchino, eh. Beh, lo so, ma mi dà un bel fastidio. Mi dà un bel fastidio perché mi piace da molto, ma non poco, ma molto. E come dici di credere questo? Non l'ho mai, mai, mai provato. Mai. Io sto facendo samurai adesso. Questo qui, questo baracchino qui, cos'era? Il tuo o te l'hanno dato? Ah, quel baracchino è sempre stato mio. Comprato, usato 3-4 volte e dopo ho messo da parte perché poi abbiamo smesso di parlare, quindi non mi è mai interessato più e l'ho messo da parte. Però se ancora mi ha provato con il Galaxy proprio secondo adesso, il Galaxy Samurai, che vuole un 2100, vuole assoluto, però è diventato. Poi avevo il Multicomp, avevo il Summercamp, avevo la 48, il 48 Plus, una 78, una 18, io avevo questa vecchia. Sono Gianni. Parecchio, perché non avevo disponibilità di liquidi. Che tutto? No, utilizzava la macchina, dici l'intenzione di utilizzare la macchina. Cazzo. Vabbè, anche un mufli. Allora, una punta che lo so come cannello, quindi ha la punta grossa a taglio, la punta più sottile a taglio, poi ha tre punte a punta, una più fina dell'altra. Tu praticamente ne intercambi come vuoi con la linea a vista, no? Quando sono andato da freddo, chiaramente. Allora, un attimo, l'accensione piezoelettrica, tu apri il gas, no, da sotto, poi fai tic, si accende, ma nel giro di 10 secondi, 15 secondi, esagerando, già pronto a andare. Io ho già bruciato due cose, la torvale al tavolo che mi è caduto sopra la torvale, non ce l'ho fatta staccarlo subito e me l'ha bruciata. E poi una volta quando sto facendo il piede per l'antenna, l'ho appoggiato sul comodino, sono andato a prendere le punte, mi sono dimenticato che era caldo, l'ho appoggiato sul letto, da sento che sono bruciato, tutto il piede bruciato, non il piede, il collo, la frappunta. Guarda, così mi sono preso, perché così a me molte volte mi ha bruciato le mani, mi ha bruciato il giubbotto, molte volte così sono saldato, l'ho appoggiato, l'ho così girato, si è appoggiato la manica del maglione, si è bruciato maglione, camicia, la pelle, perché fin quando non senti calore sulla pelle non te ne accorgi. Beh sì, una volta che mi è caduta, ero in cartucci di curve, infatti facendo una saldatina, e praticamente la vecchia, solo che non c'è l'aspiratore, quindi che cosa ho fatto? L'ho scaldata e poi col petto ho cercato di scuoterlo per farla scendere, no? All'antica. Ecco, solo che una luce mi è caduta sopra la cuscia, ohia. Allora, a me molte volte, ne una volta mi è venuta a finire sulla barca, stavo facendo lavoro, non avevo preso un saldante, la pompetta si era rotto, mi si era attaccato praticamente il comodino, lo volevo prendere col pollice, no? E quindi c'era solo il freno, non riuscivo a premere perché mi bucava il dito, allora dovevo trovare un correttore, ho tirato un colpo a terra, no? Perché se nella ferra mi è stato nel lusso, io vengo con le pelle. Pericolosi sono quelle cose. No, che fa il saldatore, mi qui hanno saltato che cosa è. Allora, le professionali che facevano il saldatore, che ci facevano fare la saldatura in ascendente, per nascondere il carrello dentro il petto, calo tutti i marrelli, ti bruciare tutto il corpo. Già, io ho fatto per 4 anni il saldatore, ho saldato anche gli inox di tutto. In camici di pelle ci fondono, niente, l'ho fatto, ripeto, per 4 anni. Ho lavorato un anno intero alla fabbrica dei Frati Antonella e mi occupavo della revisione dei macchinari, quindi tra l'altro la parte inox, ceste, frusse, macchine che si corrono, tutti a saldare, tutta quella roba lì. Usavo reggetti, guanti in pelle, tutto usavo, c'avevo tutto quando saldavo, specialmente quando facevo quel tipo di saldatura in ascendente. Solo che saltano, scusi, capito, ti entrano dal colletto. Lo so, purtroppo poi ho fatto quasi un anno di lamierista, perché sono la politica di saldatore, e quindi l'ho fatto per tanto tempo, poi chiaramente ho dovuto mollare perché sono asmatico. Dimmi, allora. comunque 35 euro non fanno nel più povero nel più ricco. È conveniente perché la cassa li costava 60. No, costa 60. Come 60 costa? No, 60, hanno scontato anche 49, mi sembra. E allora facciamo comprare un tuning. Perché se fai i conti, cosa 35 e sono già 45 sono di viaggio più metti un euro. Per il post-pay sono 46 euro. Thank you. fermo il vero, e quando si mette la tracca non passa di sotto canaccio e te la danno, no? Quello non è un problema. Perché tu stavi a non mi ricordo, ma c'era un lecco, non mi ricordo. dici che non la cintura, la faccio pure io. No, ma c'è troppo forte già, ma non ci capiva niente, era troppo forte, un po' già va bene. Ma lo puoi usare in lontananza, capito? Allora ero tra Bubino di caro mio. Non ero vicino, ero al video della Bubino di quando me l'ha detto. Certo, stanotte però ce l'ha capottato qualche macchina a Bubino di e tu vedi dove in terra pezzi di paraurti. Non ce n'era troppo. Eia! Sei zitta! Troppa noce! Ah no! Ah vero! E beh, tu allora! Cazzo tutto di gara che ti stavo ascoltando! Allora se te ne scenda! Perché? Così a tu! Dato a te ti regalano tutto! Tu! Mi capita a me, con la cosa che faccio, mi tanto capita qualcosa! Ma ancora mi ha dato risposta per le TV che ti ho letto ieri. Allora, stavo subito, non ti so dirlo, c'è un piccolo, c'è un grande, c'è un medio, quanto ne vuoi? Allora io mi dicevo da Sandro, glielo dico, se ne vuole, mi sembra che erano due, uno per la sua in soggiorno sicuramente, e un altro mi sembra per o la cameretta o in cucina, non lo so. Ah, se glielo dico, tu mi dici presti, io me lo glielo dico. Se mi dici le mamme, li porti, li dai. Sì, ma guarda, gli posso dare un 14 pollici. E un pollice, meglio, nuovo, funzionante, gli posso dare 190 euro. Va bene, dai, non c'è problema. Non c'è problema, se glielo dico, vediamo. Cava, e ti fate sapere. Adesso no, che resti, dimmi l'ora. Sono un mezzo, 4 ore 25. Ma telecomando ne hanno? Telecomando, l'uso, forse sì, l'altro non lo so, si va a vedere. Va bene. Va bene. Le 4 e mezza ne hai detto? No, le 3 e mezza. Era documentato, Allora, mi avevi disciutato una vez, mi suggerai che sempre uno scende, stati. Vedi cosa all'arte, ma che te ne scenda. Io non scendo, non va qui. Io ho fatto la pelucca, Fuscia. Ho capito un mangiato così, ora, musica di tutti i colori. Io chiamo la cantone perché non si è fatto e poi ho fatto bene. Ci sono fumato quel paura, no. Tu spegni il barattino quando vai a dormire, così non si stuba nessuno. Lo so, lo spegnendo, mi sono dimenticato. Allora, va bene, poi vicino, ma sei qua tu altro devi uscire? No, per la volta sono qui da volte e non sto facendo una cosa, poi ci vedrà. Va bene. Come si fa? Se per caso mi dice di, vabbè, metto che sono buoni, che funzionanti, perché la scatola ce l'hanno sicuramente, e se mi dice di portarli stasera? Come? Se mi dice di portarli di stasera? E tu dici che stasera non li posso portare? Va bene, e quando allora? Vabbè, come si sa, vabbè, io glielo dico, poi vediamo, là. Cava. Bianco. Vai Maddalena. Vai Maddalena, mi sei fuggita. Questa maglia si è rientrata già, lavorare. Se vuoi ti vedete, io ti metto lunedì per carità, Sì, ma non sai che stamattina non caldo di nuovo, mi sta venendo la febbre di nuovo. Dopo per non parlare del lavorare tanto come c'è, per carità di Dio. Qui c'è una battuta. E tu fatti il duro, io bisogna essere un pazzetto. Ma no, perché mi chiama altro settore, stava solo scrittendo a me. Stava scrittendo solo che aveva scelto consigli da fare da 3 giorni fa. Stamattina io mi sono trovato un matto, ma allucinante, per supporire a quello che aveva lasciato l'indietro più a fare quello che c'era oggi. Cappadappa, ma non è un centro di distribuzione? No. Questi sono supermercati, non sono supermercati, una cartella. Cappa Roger, Metro. E vuol dire che l'avevo fatta apposta già. Ma se considerato che insieme c'è malattia, poi non è, insomma, è proprio malato, influenzato, malati siamo malati, influenzato è stata la cosa. E vabbè, e ti hanno caricato di consegne. Sì, vabbè, non c'è problema. Cioè, nel fatto che la foto ci ha fatta fare quello che vuole. Vabbè, tu fatti di guardare, ma c'è l'orario tuo, poi ci siamo a fare bene, sono bravo e ci siamo a Zignetti. Rimane da fare per il domani. Stiamo a fare domani, però non ti ammazzano, piano piano già. Te li fai piano piano, cosa te ne frega. Però fai lunedì, sempre piano. Non so che mettono le malattie, se sono a Zignetti, perché non credo che possano lasciare la consegna così a lungo. Vabbè. Una consegna c'è a 3 giorni, capito? Da parroggero. Andava. Cappagliamma. Quanto ha? Fatto bianco. E adesso mi riposo un po', la spendo e mi riposo un po'. Se la saluti non la chicco, che sono fuori. Cappagliamma, poi mi gioca a fare il cittadino. E ho dormito. Di solito la letta non la faccio, va. E non la so fatta lunedì. Andava. Oh, ia. E se va bene. Ciao, ci sentiamo stasera. Ciao. Sentiamo. Senti, mi lascio lì 5 già, mi faccio sentire. Se ci sono già, cioè, non c'è problema. Ciao. Ciao, andava. Ciao Luca, ci sentiamo. Grazie Mario. Ma le cane pulite le hai? Ma quale pulite? Vabbè, quando se no poi non le buttiamo le compriamo nuove, cosa sai lì a prendere sempre anche pulirle. Io ogni anno le pulisco, le ingrasso, le faccio il CVC, prima avevo tutti i pulire del CVC. Poi, anzi, prima li sciacquo con l'acqua, poi lavo il CVC, poi li metto il grasso e siamo pronti per tutta la stagione. Gaffa. No, io la verità, a volte le pulisco, a volte non le pulisco, dipende dal tempo che si ha, capito? E, diciamo che così è un passatempo, però deve essere un passatempo, non si può devi avere del tempo per fare determinate cose. Ma quando si va a casa lo stesso, il si pulisce dopo che si torna. Io pulisco anche le canne proprio, le lucido, le faccio, e quando sento un mezzo. Sempre con dei grossi risultati, Mario. Canna pulita e pesce buono. Gaffa, no, le mie sono pulite, solamente che... cioè, non è che siano sporche, io le do una pulitina così con lo straccio, quando le sto piegando e poi basta, no, non le faccio altro. No, qui c'è anche per la sensibile, non per altro, no? E poi con le mani sporche di esca, magari le sono tutte queste bucciucciose e cose. Allora, me le lavo con l'acqua pulita, con l'acqua di... io le salgo tutte su, quando ho finito di pescare, le porto su a casa. Le metto nella vasca da bagno, le lavo bene con la doccia, mi faccio la doccia a tutti. Gaffa, no, io sono a casa perché dovevo aspettare un capriper, davvero, dovevo entrare in frequenza, si stava lamentando perché io ho aperto la porta una e poi non se ne voleva più andare, sembrava che mi stesse nascondendo. Allora sono qui, un 3G che mi sono descendendo, non per mai. Non so cosa dirti. Io adesso vado vicino a casa sua, ce lo vedo. Solo che il portone preciso non lo so, ma comunque. Sai, lui c'è il bar di buco. Cosa è? Che sai, non ho mai percepito il bar di buco. So che lì, in quei paraggi, là. E cazzo, là. Per palazzo di Vincenzo, non lo metto a Vincenzo. No, non lo so, no. So che lì dove c'è, diciamo così, dove c'è quella rosticceria, quella roba lì. Gaffa gaffa là. Però non so come si chiama il cognome. E poi se entra Claudio lo faccio chiamare la Claudio là. Così le dico di entrare in frequenza a vedere se viene o se non viene. Si sentono bassi bassi però, non sono spagnoli no, quindi c'è la

blu. Ah, ok, non so come fare. Per questo scemo, cavolo, mi tocca stare a casa. E allora se ti danno mani, magari Mario, va, ti dimmi. Non però prendere più di tanto. Siccome non mai lo fine mosso, lui la guarda, c'è una bottiglia. Certo, dice, noi non si altro, controllando la bottiglia, dice che non parte più. Io metto a posto le strisce, perché era fuori dal sole, ma era fermato in mesi. Ehi, gatta, se ne è accorto, ho detto che domani deve uscire morto. E io avrei aspettato anche al mese entrato e uscire morto. Ma vuole farci un giro domani, perché dice, almeno la faccio guardo, non so. Thank you. Guarda, guarda questo qua, il segnale a luci. Alza il segnale. Guarda, vediamo un po'. Hola. Non si è uscito. Ecco, sì, 9:10. Così quant'è? 1, 2, 3, 9, 3. Mario. Luca, qual è il segnale adesso? C'è 9-10 sempre. Prova. Ma che si fa? Oh, io sono partito da un cancello, no? ho tirato la prima, mi sono fatto scappato la salita in prima e ora ancora devi dire. Gastraccia, ma sorte. Gastraccia, andava. Beh, lui l'ha usato con l'altro, dice, mettiamo a caricare la batteria, mettiamo in questo nella catena, ho fatto un ricordo, se c'è la mia che da guarda non uscire in moto. Va bene, tanto io. Tutte le volte che ho dimostrato che non mi fa fare niente. Ma tu quanto la puoi guidare con le patenti che hai? Cioè, una patente B che hai? Sì, io ho la patente vecchia, io posso guidare tutti i tipi di moto che voglio. Ma tu anche la patente A, se l'ho avuto la quando ero ragazzo, però c'è la patente B, la mia non ha limiti. No, io non lo prendo la B, ma la H, la B ce l'ho già. La patente A, però la A3 mi devo buscare una moto che riesco a fare il numero 8 lì alla motorizzazione, una moto molto, insomma, che sia facile, leggera come moto. Appena la rimedio e faccio i versamenti e tutto me la prendo. Il mio fratello aveva fatto l'esame con la sua, perché lui aveva la B, no? E la B2 aveva fatto la sua, aveva l'esame. 146 kg senza la moto. Lo so. Ma poi il brutto che te la fanno tirare. Cazzo, la devi tirare, la devi stracciare e poi devi frenare di colpo. Ho visto quando stavano degli esami lì alla motorizzazione. Andava, dai. C'è una bella moto tu, ma non va bene ancora, troppo freddo, cioè, per quelle moto lì, l'estate vanno bene. Io un esame l'avevo dato con Gilera, con 125 Arizona. Ma ti avevi preso la A1 però? No, non esisteva la A1, era la A ed era per tutto quanto la moto, una volta che prendevi il patentino non va bene per tutto la moto. Però dopo ho preso la B era completa, lo stesso la A e quindi non ho fatto più niente, infatti mi hanno integrato, mi hanno tolto la A. Mi hanno lasciato la B senza limiti. La paga, andiamo. Che mi sta chiamando? Mi ha col telefono. Cazzo, tu la B l'ho presa nel 86, mi sembra. No, la B nell'89, la A nell'86. No, questa qua, nell'85, perché avevo 16 anni. Io c'è stato il fermo al coppa, ormai non molto molto ho visto anche il signor Ieto un po' ammazzato, quindi la uso praticamente come autocarro, anche di grossa importanza. Quando andiamo a uscire la domenica, il sabato, le feste che non lavoro, usciamo con la sua è nuova, le lavoro solo per andare a lavorare, fa 10 km al giorno. Mi sa che non me la c'era più, ho fatto. visto, vai. Però piano, fa le carte, non sono quello che ti risponde adesso, lo dico con Marco. Allora dentro le tutti, cava. Ciao Claudio, buonasera. Beh, ciao Luca. Ah, vero Claudio, hai ragione. Sei collegato come il mio. No, io sono sempre qua. E sono sempre correndo a tutti. Non sono collegato. Se uno deve entrare, entra quando c'è silenzio, non quando vuoi buttarlo. Non sto guardando, e si qua ferma. Io sto guardando un film, ma sono stato, ho finito adesso. E sono entrato a vedere, sentito a Luca e sono entrato a vedere. Appunto dove sta guardando la questione. Ma te ne sei aperto da mangiare? Ma no, ero nel divano con il capo, sta guardando un film. C'è un film di così. Bello, è un filmone. Allora, ritenere il basso per non trappare. Ciao, buonasera, ben sentito. sabato sera se la faccio io. Io? No, Mario, io sto sempre lavorando, il mio cervello deve fare tipo i motorini. Allora, vedete, quando sto pescando lo attacco così, sento un poco con le orecchie. Controllo, se tutto sono rotto, te la faccio, se no, non è mio, ci ho incontrato a Roberto. tutto, vediamo cosa mi dice. Io non so, ho controllato tutto, non ho gli strumenti per farlo, quindi non voglio trappare niente. Quello che ho fatto io l'ho fatto, quello che da fare tecnicamente bisogna farlo, perciò a sua scelta se lo vuole fare o meno. Vabbè, ci sentiamo più tardi, ciao a tutti. Ciao Sergio, tante cose, non so come è con giornata, sentiamo. Ciao ca, buon proseguo e niente, buon ringrazio per domani, ci sentiamo stasera. Vai anche. Sì, a chi sta chiamando, avanti. Io, già tu sì. Io non sono a Sassari. Ma qual è il problema? Sì, che c'è l'elicottero, un attimo, in più rischio possiamo ricattare. Non hai capito, non sa mai, io sto ghiacciato e non c'ero. Tanto che vuoi segnare che sei giù in campagna, amico. Ma che cazzo, mi è riuscita a me, già avrà cambiato molto se mi... Ah no, è vero. Guarda che tu il segnale da in campagna è 7, invece da casa sei 9:10, 9:15. Caspita, 9:15, ci andiamo a tenere sui ponci. Su che andiamo? A me mi sembrava un asino galoppante questo. Questo è Luca, è cercato, come se trovavo su un pancone. Tante saldature a freddo, vero? Un po' sono riprese, ma quando la riprese è tutto. stato lasciato, però poi dovevo terminare un decoder e non me l'ho fatto. Però dopo l'ho rifatto, già pensi a cosa? Come cavolo si chiama? Qualcosa mi è cambiato, belle caldature, belle argentate. Non avevo già l'ho fatto regalato. Però è tutto, vuol dire, perfetto. Come? Poi già sono un poco più distaccati dentro. Quindi lasciami sorridere. Franco, ci sei ancora? Delta 1. Stavo parlando una me 50. No, sto per scendere in giù, però non so se porta neanche l'altro di microfono. Permette la capsula. Ma non lo sai che ora gli faccio la 75, la 50 la c'è da parte. Ma per adesso manca un cacchio. Però sola mia figlia. Tappa. Se ti sente tua moglie, sta a Luma. Tu non sei mia Luma, già Lumato ce l'ho. È diventato un torcione. Ma è locato. Oh, non, se mi fermo, se mi fermo la polizia mi arresta, io poco calmo, mi ci faccio per questo. Mi dice, tu sei quello che va fuori dalle scuole. Capo di tuo ricciolo. Dunque, ci stavo pensando, mi sa, capo ci era stato qualcosa di buono, qualche mamma, qualche... vabbè, dai, ci andiamo a fare un po', ciao. Dai, sto salendo, sono le sigarette. Ritorno tra 5 minuti a funzionare, ragazzi, la faccio voi, 5 minuti, 6 minuti, da, aiuto, sono entrato, da adesso, ciao. Luca, a te Luca. Chi è che lo va, mio figlio? Vai. Luca, mi scusi, come sta? Passando già. Bravo, come vuoi, devo volare. Ma è un po' con ritardo, adesso chiamo al capo, ecco che è in giro, ah no. Ciao Franco, ci sentiamo, dai. Andare, dai, andare. Io ti recupero, caro. È arrivato, sì. No, sono quasi arrivato, però. Sono la cantoniera. Ci manca poco, ragazzi. Ehi, ehi, andare, andare. Andare, andare. Che lavora, capo. Cosa l'ha bruciato? Non ci sei venuto? Ah? Che mi ha detto che mi chiami qua, con l'ora del paracchino, non ci sei venuto? Ah, boh, non lo so, già. Non lo so, non lo so. Non so cosa dirti. Ieri mi ha detto solo se ti avevo sentito. E gli ho detto, c'era Gianni prima. Poi lui mi ha detto, vabbè, appena non lo senti, dille che quel tipo vuole il paracchino, no, va. Mario! Mario! No, non è la lì, forse che non si prende qualche cosa, non so, è la lì, devo prendere il sigaretto. Aia. No, no, era solo. Aia, una buona sera, ci visti, una buona sera. Senti, ma è bello, sono entrato a Carlo, ecco così si va avanti, siamo chiaro. Thank you. se fosse un colore franco non l'ho mai visto. Tu pensa che per un attimo ho dubitato che fosse qualche campagna qua vicino. Allora, con la stessa antenna, accordato, all'apparato arrivato 9:20, questo parlo di Alta Italia, 9:20, con l'altro apparato arrivavo quasi 9:50. Buonasera. Antonio. Buona calacchiata. sì. Va bene, va bene. Grazie di sembrare lungo. Ma chiamato comunque, ma che potevo rispondere che c'era Roberto, che però facciamo vedere la radio. E niente, ce l'ho portata via e ciccia. No, perché poco fa ho detto, questa cavolo ha chiuso, me lo ammetto. Ho detto che se c'è, se, che Claudio ha attaccato tutto, quel, boh, non mi ricordo cosa ho detto. E tu mi hai detto, male si è offeso, ma come non si offende, a me mi conosce, sa come sono fatto, perciò no, non c'è problema. È per quello, infatti abbiamo chiamato, ho chiamato e tu mi hai detto, aspetta un attimo. Tutto qua, niente di grave. Figurati, questo è il mio offerto. Non conosco già la situazione, no. Non c'è problema, ci si può scherzare e fare. Il codice di questa radio mi ha preso un po' la radio di Roberto, perché questa gente di Giannetta a me mette subito in crisi, capito? Se potessi, credimi, guarda, se potessi fare qualcosa per andare e rompere il culo a questo, sarei partito immediatamente adesso, guarda. Sarei partito subito. Con la radio e con la valigia l'avrei trovato e l'avrei tirata a testa, capito? Invece purtroppo non posso farlo. Comunque io con il mio chiuso, non me la fotti più nulla. Non mi interessa proprio niente, nulla. Manco andare a vedere voi occhi. Niente del genere, guarda, proprio schifosa in tutti i sensi. Comunque a me, io ho comprato un'altra radio, tramite sempre Luca, un 450 dentro la scatola. Devo dare un'altra radio che la differenza. Comunque dentro la scatola non è usata, non tanto di garanzia, perché non la sono piazzata l'antenna. Quindi, uno del complimento lo stesso. Senza il BI, senza niente, tramite, come si chiama, quello che c'è su. Adesso un batterino per maggiorare, ma è andata addirittura a provare. Mi ha detto prova, se va bene, mi hanno dei soldi. Se non va bene, mi rimando indietro la radio. Questa è la persona onesta, che è stata una persona seria. Tappa, tappa. Andà bene, dice. Vediamo un po', Alan 2, mi ascolti? Boh, se stai parlando io non ti ascolto, negativo, non ti ascolto. Franco? Sono Luca. Cavagava. Ma se per Bruvendi si chiama, se ti invaria. Ah, stavo finendo di pulire la roba qua, e non sei su Bruvendi. Boh, ma ci può andare a provare? Se ti può, mi ha dato i canali, ma se ti invaria. Non sentivo più la Claudio. Ma cosa mi sposo, non mi sposo. Beh, mi posso mettere qua, mi dici, no? Cazzo, a accordare a fare il calzino. Cazzo, non dico ogni volta di l'accusa, ogni volta. Mi fai 20 accordature al giorno, tu, minimo. Perché io stavo regolando le cose e vedo la cosa perfetta. Perché io sono una roba perfetta. Cazzo, mi ci diano le palle. Ah, no. Avanti il break. Ciao, sono rientrato, ciao a tutti. Datemi il controllo della radio, perché devo regolare il microfono con il microfono. Fai, un passaggio, vediamo un po', vai. 1, 2, 3 prova, 50. Sono ancora prenato, magari ti fate provare per quella. Già va bene, Roberto, io va bene. Vediamo un po'. Alan 2 dove è arrivato? Alan 2? Sì, io sono dentro un Sassoli, sono appena entrato a Sassoli, sono vicino alla facoltà di veterinaria. Io mi ascolti, sì. Molto forte. Gappa, gappa. Aspetta, ma avanti, Franco. Vai, Franco. Ciao, Alan 2, buonasera. Buonasera, Franco. Ciao, Alan 2, buonasera. Franco, questa non l'avevo fatto. Ciao, Franco, ti ho salutato poco fa, scusa. Ciao, Franco. Lascia vedere un po'. Questo qua è Mario. Mario. Ti stavo mettendo un portante, Mario. C'è una portantina a Santiago sì qua. E ti sta coprendo. Avanti, Franco, ascolti tu a Mario. Franco. Mario, vieni avanti. a Mario, non ascolti? No, non ho attivo. Ma terra a terra, tutto gracchiante arriva, boh, sto stra, non si comprende nulla. Certi passaggi li capisco, ma certi no. Andava, adesso stiamo mettendo un po' la portante, ma va bene, vediamo un po', non mi ripeto, dai. Non dai. Con la macchina che fanno per la mia GQL. Arrivi più forte di me, io ci trovo anche attaccati, arrivi più forte tu che io, eh? rendi conto? Vabbè, lasciamo perdere, va, riprendetela. Lascialo ghiacciare nel sentino, ciao, va lì. Comunque, sì Mario, anche noi ti ascoltiamo. Ascolti. sentito. Comunque Roma, questa antenna già è alta adesso, proprio un bel lavoretto è fatto. Di lusso, però mi sei rifiutato senza tiranti. Qualcuno li avrei messo, giusto per... così, giusto per esserci qualche tirante. Due li avrei messo, una patrona all'altra. Luca, dal duro, dal duro del muro, cioè di un paio di metri, neanche, non è che ne fa molto di quello. Quando ho chiesto questa antenna, l'altro palo, il tirante l'altro palo, soprattutto se lo metto il tirante. Ah, così non è che flette molto, più che altro flette l'antenna, ma è normale che fletta. Via, via, vediamo un po', Mario! E ti mettono la portante, si vedono i cunetti due anni. Mario, ce l'hanno con te, ti mettono la portante. E dove con chi ti abbattate? Ma non la sentite. Sì, a Roma, cioè, Mario è 3 qua, 3 a picchi di 4. E la portante è 6, lo copre. Ma stanno mettendo la portante a 6, no, ma so che lo 6 è qua. Sai la cavolo, ci vuoi mettere anche tu che vi ha cunetto? Perché quando occhiamo li mette la portante. Non ci sono più la portante, io una volta. Non lo vedi? No, c'ho il QRM io, intorno ai 5-5-40, almeno. Sono tu 6, ma te la sento la portante. Ma a te non te ne dà fastidio, se è dove tu 30 qua, ma se te ne scenda. Gatti che sono, non devi avere. Neanche Antonio, che è lontano. Cava cava, vediamo un po', ma ci sarà ancora Antonio, a tu. Allù. Dimmi. Ma ci sei ancora? Sono sempre qua da guascio. Roberto, non lo senti? Sì, mi ha allontanato. Roberto, chi sei? Sì, che ci sono. Ma mi sembra chiaro che sta arrivando a Luca con quel segnale. Sì, ti chiedo, vabbè, ci ho scimato tra il cielo e il telefono. Sì, sono di meccanica io, dopo la motorizzazione. Va bene, è a voglia, c'è anche prima gli adussi. Beh, Roberto, vediamo adesso il passaggio. Fammi adesso, vai, vai, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lascia il calato, 9 e 15 sei, a picchi di 20. E sono oscillate, Robè. C'è un segnale che sale e scende. Però non scende oltre il 9. C'è un segnalone qua, Luca! Ehi, ah! A me mi arriva, faccio tu il segnale. Figurati. No, adesso come ti arrivo invece? Che adesso sono uscita dalla chiesetta, sono risalita. Più quanti 9, Robè? Qua, più 20, Robè. Più 20. Giuda Antonio quasi 9. Non è male, già è buono. E io sono con la tenda piccola e sono in punta con Casino. Ah, ma c'è campagna a teatro. Certo che sì, Marco. Ecco un attimo. E beh, tu come sono io? Qua c'è un break, dove fanno entrare. Un attimino, avanti il break. Mi stai sentendo qualcuno? Luca. Mi avete chiamato? Cioè, non è un break c'è. C'è un break piccolo come fa. E dite giù, break. Oh, vabbè, ma lo metti meno con Rix che sto viaggiando, c'è un po' di traffico qua. E io, babbo, anch'io devo uscire a fare la strada vecchia. Roberto Quadrato, se ci sei ci sentiamo dopo.